Con Anna Maria Pasetti del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023 e fare anche qualche considerazione sull'annata cinematografica. Ben trovata, ciao, auguri! Auguri a te, Fede, alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Qualche riflessione sulla direzione che sta prendendo il cinema a tuo modo di vedere? Il cinema mi sembra che da qualche anno cerchi di galleggiare, di sopravvivere all'avvento di quello che è, insomma, il fenomeno visione, due considerazioni. Uno è il fenomeno di visione proprio produttivo, che sono le realtà seriali, che per lo più appunto hanno portato gli ex spettatori del cinema a vedersela a casa, e poi quello che è già da anni, cioè visioni casalinghe su qualunque dispositivo, piattaforme, possibilità di fruizione, insomma, talmente numerose e intrecciate che il cinema si è dovuto guardare allo specchio e dire chi sono, dove vado, perché esisto ancora. E negli ultimi mesi, insomma, c'è stato un ritorno, anche grazie forse ai prezzi calmierati, a delle iniziative degli esercenti, di tutta la filiera del settore, che ha permesso di far ritornare le persone al cinema. E non per ultimo, mi sembra, per esempio, uno dei film di cui parlerò io è uscito in estate, e comunque è uno dei film che ha guadagnato di più, quindi anche l'estate, che è quella che è sempre stato lo spauracchio italiano, però allineandosi un po' con quelle che sono uscite mondiali, day and date, quindi anche e soprattutto quelle statunitensi, forse è un po' passato questa cosa della paura dell'uscita. Il cinema deve cercare di distinguersi da tutto il resto, cercare di continuare a cavalcare l'idea che la visione in sala sul grande schermo, con tutta una serie di caratteristiche tecnologiche sempre più avanzate, e la visione collettiva debbano rimanere centrali per poter esistere, e quindi si deve anche attrezzare per questo. Arriviamo ai tuoi cinque. Io non sono in ordine di preferenza, li metto più o meno tutti livellati. È proprio quello estivo, è Oppenheimer, che è appunto uscito in pieno agosto, di Christopher Nolan. Si tratta, secondo me, del miglior film fatto proprio da questo regista londinese, che è sempre stato molto ambizioso e ha lavori in alcuni dei casi straordinari, non tutti, però in questo caso ha dimostrato anche una solidità di scrittura, di aderenza alla storia, sempre con una cifra altissima tecnologica. Proprio il cinema, lo stato più puro, ecco. Io ho trovato un film stupefacente, ecco. L'ho visto poi nella modalità migliore, credo, all'Arcadia, no? La sala energia a Melzo, vicino a Milano, in 70 mm, insomma, qualcosa di straordinario. Poi vado a Cannes con un film che ha vinto la Palma d'Oro, di Justin Triet. Per me è stata una grande sorpresa, perché gli altri suoi film non è che mi avevano convinto granché. È Anatomia di una caduta, ha vinto meritatamente. È un thriller familiare psicologico, iniziato quasi esclusivamente in una location, massimo due, scritto in maniera esemplare, e che riesce a condensare la capacità appunto di intonare dei temi importanti in una capacità di sguardo originale, e sicuramente abbastanza inedita, perché è un film molto lungo, eppure riesce a tenere lo spettatore incollato in una altalena di ambiguità che si basano tutte proprio sulla grande capacità di scrittura. Mi fa abbastanza sorridere che la Francia, che ha prodotto questo film, non l'abbia scelto come il suo portavoce per gli Oscar, senza rendersi conto che questo film sta comunque già iniziando una stagione di premi importanti. Lo troviamo per esempio nella cinquina dei film stranieri ai Golden Globe. Poi mi sposto su due registi, entrambi spagnoli, ed è la prima volta per me che prendo due spagnoli nella mia cinquina. Per me è grande stagione del cinema iberico, almeno perché c'ha due esponenti straordinari. Il primo film è Pulp Fiction, Il mondo sommerso, di Albert Serra, che secondo me è una delle voci più straordinarie, magnifiche del cinema contemporaneo, insomma della nuova generazione del cinema iberico. Lui è un catalano, italiano, ha fatto dei film non facili di visione, ma proprio per questo ci piace. Pulp Fiction, film di oltre 3 ore, ambientato nell'isola di Bora Bora, film in cui apparentemente non accade nulla, con i tempi lunghissimi, come è nella cifra estetica, poetica di Albert Ter, in realtà succede tutto. Cioè, succede un mondo, soprattutto succede del grande cinema. C'è un Benoît Magimel, protagonista eccezionale, un attore che amo molto, che è sempre stato un po' maledetto, se vogliamo, anche per la cronaca, per le sue vicende, però io lo trovo interprete. Poi l'altro grande spagnolo di quest'anno, Rodrigo Sorogoyen, che lui è giovane, insomma, Asbestas. Film che ho visto anch'esso a Cannes, era poi concorso. Non è una novità che Sorogoyen faccia dei grandissimi film, e qui si è confermato una storia apparentemente semplice che in qualche modo ricalca Il vento fa il suo giro del nostro Giorgio De Ricci, che ci era piaciuto tanto, avevamo anche premiato, se ricordi, con certo. Visionari, però non ha niente a che vedere da un punto di vista cinematografico, ma semplicemente perché fa una coppia che va in un territorio non proprio a si stabilisce, in questo caso sono due francesi che vanno nel versante spagnolo dei Pirenei e stabiliscono la propria dimora con tutta una serie di coltivazioni curate, senza fertilizzanti nocivi eccetera, e la popolazione locale li ha persa. Un cinema veramente strepitoso, Sorogoyen è proprio un grande, grande regista. E l'ultimo, anche lì è una conferma, nel senso che parliamo di un grandissimo regista sudcoreano, Park Chan-wook, che la cui filmografia, per quello che ho visto io, diciamo 3/4 della sua produzione, mi è sempre piaciuta e mi è sempre spinto nella sua capacità di violenza umanista, filosofica. Decision to Live, che anche su un concorso a Cannes, soprattutto un film di grande regia, forse il suo film più complesso, più ambizioso e sofisticato, una storia di grande malinconia, decidere di partire, di lasciare, di lasciarsi. Lo trovo appunto uno dei gioielli usciti in sala nel 2023. Non ho messo titoli italiani, anche se una menzione la vorrei dare nuovamente al nostro più grande regista vivente, che è Marco Bellocchio, il cui Rapito è straordinariamente tra i suoi film migliori dell'ultima stagione, ed è bello perché lui comunque oltre 80enne ha fatto un film potentissimo che forse le nuove generazioni sognano ancora di riuscire a scrivere, a girare, a manovrare così la macchina cinema in tal modo. Allora, ci sentiremo nel corso dell'anno, auguri e un abbraccio. Un abbraccio a te, auguri ancora a tutti.